Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Dopo la puntata scorsa in cui abbiamo avuto ospiti Creamy Mammy, questa settimana è il turno di una band con una lunghissima storia alle spalle e molto nota nel panorama hard rock italiano. A voi la parola, ragazzi. Bella lì, ciao a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio RCS. Ciao, Sammy Rain. Io sono Amos, il chitarrista. Io sono Marco, l'altro chitarrista. Bella lì. Con i Rain è doverosa la tappa sia nella prima che nella seconda parte, nella storia dell'hard rock degli anni 70, in questa ci sarà quella di matrice americana. Primo brano era di Montrose, la band guidata dal chitarrista Ronnie Montrose, che vedeva un 18enne Sammy Hagar alla voce. Dal loro disco omonimo del 1973 abbiamo ascoltato il brano Bad Motor Scooter. A voi la parola, ragazzi. È un pezzo che spacca veramente, c'è un ritmo strepitoso. Io ti dico, i Montrose li conoscevo più che altro di nome, perché tutti li citano in quanto Sammy Hagar, diventato poi famoso nei Van Halen, proveniva da questa band. Esatto. Se Sammy Hagar non faceva successo con i Van Halen, probabilmente nessuno li avrebbe mai conosciuti, in verità. Però ti dico, mi hanno pesantemente colpito, spaccano. Direi che Sammy Hagar è anche un certo cantantino, eh. Il nostro cantante, che stasera purtroppo non è riuscito ad inviare in trasmissione, invece è un grosso appassionato di questo genere degli anni 70, lui li conosce molto bene, infatti mi aveva detto che sarei stato stupito e ci ha preso. Un grande disco. Irene, dicevamo, è una storia che affonda le radici nei primi anni 80, una versione condensata della vostra biografia. Sì, i Rain sono nati nel 1980, però fondamentalmente dall'80 al 90 hanno fatto veramente poco, molta fatica a imporsi, un po' di fatica anche a trovare quello che era il genere musicale da suonare, poca promozione nei primi anni della vita, pochissime registrazioni. Dal 90 in poi la lineup si è stabilizzata, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, per arrivare a far uscire finalmente due dischi distribuiti in maniera decente, quindi Head Shaker e Big Ditch, che era il predecessore. Tra il 2000 e il 2003 questi due dischi hanno creato quelle che sono state le basi poi per l'arrivo nel 2000 della band, che è uscita dalla dimensione locale di Bologna e dintorni, è riuscita un po' a imporsi a livello nazionale con una serie di concerti concretizzatisi dal 2001 al 2003 di supporto a Paul Di'Anno in tantissimi festival, in un sacco di... dovunque c'era da suonare i Rain ci sono sempre andati, si sono sempre divertiti, e grazie a questa grossa attività live, soprattutto dal 2000 in poi, e a questi due dischi che dicevo prima, grazie anche alla pubblicità che è stata fatta dalle case discografiche e dalla distribuzione, la band è riuscita a uscire un po' dalla provincia di Bologna, insomma. Questo un po' per condensare. Chiaramente adesso la line-up attuale dei Rain, la cito brevissimamente, certo. Io, Marco, le chitarre, alla voce Francesco Grandi, il biondo, alla batteria Andrea Baldi e al basso Gianni Zenari. Questa formazione dal 2008, che ha fatto uscire poi il disco che andremo a ascoltare più tardi, che è uscito l'anno scorso, che si intitola Dead is Dead, è quella che adesso porterà avanti il lato, diciamo, si cercherà di uscire dall'Italia, addirittura di andare un po' oltre in Europa, e dove riusciremo, insomma, esatto. Si continua con Ted Nugent, il feroce chitarrista di Detroit, colto nel doppio Double Live Gonzo del 1978, con la canzone Wang Dang Sweet Poontang. We'll be right back. Personaggio leggendario alquanto discusso, ma sempre in pista in ottima forma. Che ne dite? Tadunze a me piace veramente molto, perché è molto personale, ha uno stile molto accattivante, molto particolare. Ricordo un suo pezzo sulla colonna sonora del film Rockstar che mi piace veramente molto, molto ipnotico, con questi lunghi parti dove lui comunque fa degli assoli che non sono dei veri assoli, ma iniziano come assoli, poi iniziano a fare delle melodie con la chitarra che poi si intrecciano, ma molto particolare. Poi molto rock and roll, poi è abbastanza maraglio, quindi mi carica, mi casa. È assolutamente un animale da palcoscenico, non c'è niente da dire, eh? Sì. Influenze musicali dei Rain, quali sono? Immagino tante, e quanto incidono in fase compositiva? Ma incidono molto, perché comunque siamo 5 persone, come dicevo prima, che ognuno ha le sue preferenze. Chi gli piace magari un po', cioè chiaramente il background è molto simile, perché poi c'è quello che magari gli piace più, come al nostro cantante, qualcosa di anni 70 o qualcosa di postmoderno degli anni 90. C'è chi, come al bassista, piace più il glam rock. Il nostro batterista è pazzo per i Motörhead, quindi Motörhead a manetta. Io sono un po' più aperto a 360 gradi, mi piacciono più cose, dal thrash al glam, al metal, al class rock, alla OR, tante, veramente molte tutto cose. Tutto un po', insomma. Sì, tutto un po'. Quindi tutte queste cose qua si fanno sentire e ci piace anche miscelarle e che si sentano nelle nostre canzoni, perché comunque facciamo un genere abbastanza classico ma abbastanza variegato, e la nostra sfida attuale che ci siamo dati a noi stessi è quella proprio di cercare di fare qualcosa di nuovo in un genere che comunque ha già dato molto ma può ancora dire tantissimo. Certamente. Per chiudere questa parte con l'hard rock americano, voi Kiss, la band guidata ancora oggi da Paul Stanley e Gene Simmons, in un classico dal disco Dressed to Kill del 1975 dal titolo Rock and Roll All Night. Everything you